Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che propone notizie, riflessioni, musica, cultura nella prospettiva di una società non violenta che supera i confini di specie. Oggi vi proponiamo un percorso di notizie riguardanti alcune specie animali a rischio e anche un'occasione di riflessioni che riteniamo preziosa. La lotta contro l'uso delle pellicce di animali come capo d'abbigliamento è fra le più conosciute e durature del movimento animalista. Non è ancora una lotta vinta, ma un lungo percorso è stato compiuto, al punto che molte case di moda negli ultimi mesi hanno annunciato la scelta di rinunciare a capi con pelliccia. Le notizie di questi giorni riguardano il punto di partenza di questa terribile filiera, gli allevamenti, e vengono entrambe dall'Emilia. A Noceto, in provincia di Parma, un gruppo di animalisti senza nome ha liberato da un allevamento un migliaio di visoni che si sono così dispersi nel territorio. Ma più importante è probabilmente la notizia che riguarda Fossoli, in provincia di Modena, dove il locale allevamento sempre di visoni è in via di chiusura dopo 60 anni di attività. L'annuncio arriva dall'associazione Essere Animali, che è stata in prima linea nelle campagne di informazione e di pressione sul tema delle pellicce. 3 anni fa Essere Animali, proprio a Fossoli, fu protagonista di un'azione diretta che fece notizia sui maggiori mezzi di informazione. Alcuni attivisti entrarono nell'allevamento e si legarono alle gabbie con i lucchetti, in modo da impedire l'uccisione degli animali, normalmente soffocati con il gas. Una metodologia questa, detto fra parentesi, che rende ancora più sinistro l'allevamento di Fossoli, costruito in un luogo vicino a Carpi, famoso nella storia d'Italia per essere stato durante la Seconda Guerra Mondiale il campo di raccolta per prigionieri, soprattutto ebrei, destinati ai campi di sterminio dopo l'arresto eseguito dalle milizie fasciste. Da Fossoli partì per Auschwitz, fra tanti altri, anche Primo Levi. Chiusa la parentesi. Essere Animali ha spiegato che la chiusura dell'allevamento è stata decisa dal proprietario a causa della crisi globale del comparto della pellicceria, nonché per le complicazioni legate all'allevamento di una specie alloctona quale il visone. In Italia esistono attualmente una 20 di allevamenti di animali da pellicce. Sono ancora molti, ma dobbiamo pensare che negli anni 90 erano più di 100. Intanto in 12 paesi europei l'allevamento di animali da pelliccia è vietato e nel nostro stesso Parlamento sono depositate proposte di legge che si propongono lo stesso obiettivo. Anche se, a dire il vero, non sembra che a Roma un provvedimento del genere sia all'ordine del giorno delle maggiori forze politiche. In ogni caso, la chiusura dell'allevamento di Fossoli è un segnale eloquente di una tendenza in atto. Thank you. Ormai da tempo che uno degli effetti più drammatici e scioccanti del nostro modello di sviluppo è la scomparsa di numerose specie animali e vegetali dal pianeta. Fra quelle in via di estinzione figurano animali che fanno parte dell'immaginario collettivo, dell'idea di mondo e di natura con la quale cresciamo. Parliamo di animali come elefanti, tigri, leoni, specie che potrebbero scomparire nell'arco di pochi anni. In un servizio comparso la settimana scorsa sul Corriere della Sera si racconta la sorte della cosiddetta tigre siberiana, ridotta ormai a solo 500 esemplari in remoti, inaccessibili territori asiatici. Alla riduzione dell'habitat naturale, problema condiviso con la gran parte degli animali selvatici della Terra, si somma, nel caso della tigre siberiana, un'intensa attività di bracconaggio, favorita da un mercato nero che vive su tradizioni e leggende circa la natura curativa e afrodisiaca di certe parti del corpo di questo animale. Il destino della tigre siberiana, insomma, sembra segnato, visto il numero esiguo di esemplari rimasti e la forza distruttiva del business, vero e pressoché inarrestabile motore delle nostre società. Il Corriere racconta però la storia di Pavel, un ranger con formazione scientifica che vive nella tundra in condizioni proibitive per contrastare i bracconieri. Pavel è entrato in sintonia con le tigri e ha ottenuto buoni risultati. È riuscito a fermare e avviare a processo alcuni bracconieri, ma è chiaro che la sua azione non potrà essere certo sufficiente per bloccare la forza del denaro e del fucile che ha decretato la scomparsa della tigre siberiana dalla faccia della terra. Una speranza di salvezza continua a nutrirla il WWF, che ha lanciato una campagna per la creazione di centri di recupero per tigri ferite o cuccioli rimasti senza madre, una sorta di supporto al lavoro che svolgono personaggi come Pavel. È un filo di speranza per la sopravvivenza della tigre siberiana. Ambientale di invasione degli habitat animali da parte delle società umane, arriva dall'India un certo allarme per l'invadenza e i comportamenti di macachi e altri primati che vivono all'interno delle grandi città. L'agenzia Reuters ha diffuso un video girato a Nuova Delhi nel quale si vedono decine e centinaia di macachi nei pressi di uffici e palazzi pubblici. Macachi che camminano in gruppo per strada, che corrono, che si arrampicano lungo le pareti dei palazzi, che entrano dalle finestre, macachi che cercano cibo e danno confidenza, molta confidenza alle persone. Vedere scimmie in giro per la città non è infrequente nelle città indiane, dove sono generalmente trattate con benevolenza. Molte persone offrono anche cibo, come mostra lo stesso video della Reuters. E del resto le scimmie vivono dentro le città, fra gli alberi, in parchi, giardini, proprio perché trovano cibo. Spesso anche lo rubano. In alcune città la presenza delle scimmie comincia a essere considerata un problema, e si sta cercando di individuare una soluzione. Ma non è facile capire in che modo cambiare e regolare le forme di convivenza fra persone umane e altri primati in contesti urbani. Anche l'India, in definitiva, sconta un processo di inurbamento che non ha considerato il fattore animale, e quindi la convivenza deve essere cercata per tentativi ed errori, sopportando gli inevitabili disagi. La morale che possiamo trarre da notizie e video in arrivo dall'India è che ogni volta che si progetta un intervento in città, andrebbe considerato che fra gli abitanti non ci sono solo le persone umane, ma anche molti animali, per non parlare delle piante. Allargando lo sguardo, avremo tutti dei vantaggi. Sometimes I feel like a motherless child. This was not hope, this was not sane, and from these broken places made. That was lost and this was later. I wanted less but nothing greater. I couldn't leave, I couldn't stay, so like a motherless child. Sometimes I feel stay so like a motherless child. Sometimes I trasmissione si è sempre definita animalista, antispecista e vegan. In tre parole abbiamo racchiuso il senso delle nostre scelte e del nostro essere. Da oltre 5 anni proponiamo notizie, riflessioni, spunti filosofici e culturali, musica e gastronomia, avendo in mente un'idea di società molto diversa dall'attuale. Una società che mette al centro un'idea di convivenza pacifica all'interno della specie umana e fra tutte le specie viventi. Una società che cerca di minimizzare la propria impronta ecologica, che incorpora un'idea di giustizia più larga di ciò che normalmente intendiamo per giustizia. È un'idea di società tutta da costruire e forse anche da immaginare. Non esistono ricette precostituite, modelli confezionati a tavolino. Ci sentiamo insomma parte di un'avventura, di un processo di ricerca sia teorica che pratica, verso pensieri nuovi, mai o poco pensati prima, e verso comportamenti individuali e collettivi, diversi da quelli correnti. C'è quindi molto da studiare e molto da capire. Perciò abbiamo pensato di mettere in piedi un piccolo corso di antispecismo, il concetto richiamato nel nostro stesso slogan, ma non così diffuso e conosciuto da poter essere considerato un'idea acquisita da chi ci ascolta. E neanche da noi, a dire il vero, visto che l'antispecismo è una filosofia giovane, tuttora in costruzione. Vorremmo chiamare questo piccolo corso L'antispecismo spiegato a mia nonna, rubando il titolo di un gustoso e istruttivo libretto pubblicato qualche tempo fa dai Troglodita Tribe, i quali, peraltro, ci aiuteranno in questo percorso con i loro contributi, insieme con i pensatori e gli attivisti che più hanno riflettuto attorno a questo tema. Ogni lezione è concepita in due parti, una teorica e una pratica. Cominciamo oggi con il primo contributo, quello teorico, di Benedetta Piazzesi, autrice, fra l'altro, di un importante libro, Così perfetti e utili, genealogia dello sfruttamento animale, pubblicato dall'editore Mimesis. Il secondo contributo andrà in onda la settimana prossima. Maramau, perché sei morto? L'antispecismo spiegato a mia nonna. Quella Quella tra allevamenti intensivi e campi di concentramento è sempre stata un'analogia scandalosa. Il grande storico Valerio Marchetti, in sede di laurea, mi fece notare che un tale frettoloso paragone, pur nell'equiparabile orrore subito dalle vittime, non teneva conto della differente portata storica dei due eventi. Il nazismo ha rappresentato una ferita storica profonda, una rottura nell'elaborazione lunga, faticosa di certi valori universalistici, egualitari, democratici. Tutto il suo orrore risulta quindi tanto più ingiustificabile in una storia delle mentalità che conceda una qualche fiducia all'emancipazione degli sfruttati. Penso che sia giusto conservare una parte di questo scandalo, che d'altronde è lo stesso scandalo che proviamo in questi giorni nell'assistere a una recrudescenza di razzismo che giunge ad alcuni di noi inaspettata. Tale asimmetria nella similitudine tra allevamento intensivo e regime concentrazionario può essere utilizzata tuttavia anche per mostrare la specificità della condizione animale. È quello che ha fatto ad esempio Jacques Derrida. Nell'animale che dunque sono, sottolinea che gli animali vengono annientati in un modo molto particolare all'interno dell'allevamento, cioè attraverso la loro sopravvivenza, o meglio attraverso la loro moltiplicazione. Questo agghiacciante paradosso porta all'estremo due imperativi opposti, vivere e morire, cosa che ne fa un esempio molto radicale di dispositivo biopolitico. Quando Michel Foucault parla di una politica che si esercita sulla vita biologica, intende naturalmente un ampio plesso di fenomeni del potere contemporaneo. Ma nel nazismo essa giunge al suo punto estremo, rovesciandosi nel suo opposto, in una tanato politica. La vita vi è infatti determinata in ogni suo dettaglio, ma sempre all'interno dell'orizzonte della morte. Questo, al di là delle inevitabili asimmetrie, mi sembra un comune denominatore forte tra allevamento moderno e regime concentrazionario. Ciò che è importante sottolineare, dunque, quando si parla di questa inquietante analogia, è che essa non è evocata per schiacciare l'un termine sull'altro, ma perché ci sembra che l'unico modo per avere una memoria viva e attiva di una tale tragedia umana sia riconoscerne le vittime là dove ci rifiutiamo di vederle, perché è in questo disconoscimento che passa sotto silenzio e prolifera la violenza. Questo disconoscimento è spesso, e lo è stato sicuramente nel caso dei campi di concentramento, sinonimo di un processo di animalizzazione che rende l'altro nient'altro che un animale. Questa animalizzazione è attiva nei confronti degli animali stessi, cosa che è tutt'altro che scontata. Dire che polli o mucche sono solo animali non è una constatazione neutrale, ma porta con sé un giudizio di valore, porta con sé in un certo senso già una condanna. La specie, come la razza, come il genere, come sostiene Massimo Filippi nell'Invenzione della specie, è infatti un costrutto sociale, un costrutto che, addensandosi attorno a un carattere biologico, dissimula tutta la sua storicità e arbitrarietà. Quando, sull'apparente naturalità di un destino scritto sulla pelle o nella carne, si abbatte un dispositivo di portata massiva e di efficienza industriale, è allora che il campo di concentramento e l'allevamento intensivo circoscrivono strettamente la vita e la morte. Like a way with me, then a way with words is the key. My way you write blows my mind. Ogni settimana mettiamo alla prova il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, sfidandolo a proporre una ricetta che sia legata a una delle notizie incluse nella puntata. Sentiamo che cosa si è inventato stavolta. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Parto con lo stile vegan, tiri in bomba. Risveglio dei cervelli, non mentiamo, tu conta. Un esercito criticato da animali che parlano di animali solo in forma domestico, carne morta. Il mondo vegano dove mi sono insediata, allevamenti che non vanno all'allevamento, sbagliate semicritiche. Tre tigri contro tre tigri. Difficile da dire, soprattutto se ripetuto molte volte velocemente. Molto più semplice invece, restando in tema di tigri, è preparare il tiger bread. Un pane olandese con una crosta decorata da una glassa a base di farina di riso e olio di sesamo, che la rende simile al manto del bellissimo felino dal quale prende il nome. Gli ingredienti per una pagnotta sono 500 g di farina zero, 270 ml di acqua tiepida, 25 g di lievito fresco di birra, un cucchiaino di malto d'orzo o di riso, oppure dello zucchero di canna, un cucchiaino di sale. Per la glassatura invece 50 g di farina di riso, 50 g di acqua tiepida, un cucchiaino di zucchero di canna, un cucchiaino di olio di sesamo e 3 g di lievito di birra. Vegan, chiedimi se sono veg. Vegan, chiedimi se sono veg, chiedimi se sono veg, chiedimi se sono vegan. Quest'estate voglio andare al mare per farti vedere quanto sono vegan. Un attimo e sto via da questa civiltà disinformata. Per prima cosa preparate la glassatura. Sciogliete il lievito nell'acqua tiepida e lasciatelo riposare per 5 minuti. Quindi unite tutti gli ingredienti della glassa e lavorate fino ad ottenere un impasto piuttosto denso che lascerete riposare coperto fino al suo utilizzo. Adesso preparate l'impasto della pagnotta. Nuovamente sciogliete il lievito nell'acqua tiepida, aggiungete il malto d'orzo e lasciate riposare 5 minuti. Quindi unitelo alla farina che avrete disposto a fontana. Se invece utilizzate una planetaria, versate il lievito diluito nell'impastatrice assieme alla farina. Una volta formata la palla di pasta, aggiungete il sale e lavorate ancora per qualche minuto. Quindi coprite con un panno e lasciate riposare per 40 minuti in un luogo tiepido e asciutto. A questo punto riprendete l'impasto e lavoratelo rapidamente per pochi minuti. Formate una pagnotta leggermente oblunga o, se preferite, suddividete in pagnotte più piccole. Disponete il pane su una teglia con carta forno e spennellate generosamente la glassa su tutta la superficie. Lasciate riposare ancora un'ora, questa volta senza coprire. Fate cuocere in forno statico caldo per 10 minuti a 220 gradi, poi abbassate a 180 gradi per altri 15 minuti. Il tiger bread si conserva bene per alcuni giorni, ma è ottimo consumato appena si intiepidisce. have a big dipper, going up and down all around the bends. You could have a bumper car bumping. This amusement never ends. I wanna be the sledgehammer. Con un aggiornamento riguardante la presenza in Italia del lupo, animale simbolo delle nostre montagne, finito purtroppo nel mirino di alcuni imprenditori e di compiacenti amministratori, che stanno cercando di attribuirgli la responsabilità di una crisi del comparto caseario e dell'allevamento, che sembra avere altre più convincenti spiegazioni. Fatto sta che il lupo, già vittima di bracconaggio, rischia ad essere in futuro decimato da progetti normativi che mirano a ridurre il sistema di protezione costruito negli anni, e che è servito a ripopolare le nostre montagne di questo animale, vittima in passato di una efficace campagna di sterminio basata su pregiudizi e dicerie. Dicevamo delle cifre. L'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale, conferma che il lupo in questi ultimi anni è riuscito ad estendere la sua presenza a un quarto del paese, in pratica tutto l'Appennino e tutte le Alpi. Nelle Alpi, ISPRA ha censito 293 esemplari, distribuiti in 47 branchi, 6 coppie più un individuo solitario. Mentre per l'Appennino non si hanno cifre così precise. Secondo una stima, i lupi presenti sarebbero 1580, secondo un'altra, una cifra variabile fra 1270 e 1800. Facendo la somma, si arriva, nella migliore delle ipotesi, poco sopra i 2000 lupi. Non sono moltissimi, ma nemmeno pochi. E quindi, augurando lunga vita al lupo italiano, vi salutiamo, chiudiamo la puntata, ricordando che Restiamo Animali è una trasmissione concepita e realizzata da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Giuseppe Coco, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci, che vi dà appuntamento alla prossima settimana. Stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.